Il terzo anello ad alta voce. Per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Traduzione di Maria Napolitano Martone. Introduzione di Fernanda Pivano. Ormai di questo libro tutti sanno tutto. E immagino che quello che io dirò sono cose che voi sapete già. Prendete quello che io dico come una specie di saluto e di ringraziamento per il vostro interesse, che non sarà mai abbastanza per un qualsiasi cosa abbia fatto Hemingway, che è stato un grandissimo scrittore, oltre che un grandissimo personaggio, che ha cambiato il modo di vivere in tutto il mondo, soprattutto ha cambiato il modo di scrivere in tutto il mondo, ma cambiando il modo di scrivere ha anche cambiato l'atteggiamento degli scrittori, specialmente dei giornalisti verso le loro cose. Allora, questo perché suona la campana di cui tutti sapete tutto, forse non sarebbe nato se Hemingway non si fosse innamorato di Bertha Gellert, che era una giornalista molto bella, bionda, e quei golfini come si portavano allora, che era una cosa che lo aveva molto colpito, il doppio cashmere che si portava allora, bisognava essere molto carine per portarlo. E Marta gli aveva dato questo interesse per la guerra, non tanto per il problema di Spagna, che lui aveva già molto vivo, questo problema della libertà e dell'antifascismo, perché Hemingway non era un comunista, era un antifascista, c'è una grossa differenza. E con Marta invece, Marta l'ho voluto fare andare proprio a fare la guerra. A Marta piaceva fare le guerre, insomma, le piaceva molto questa cosa, e l'ha portata in Spagna. E così è cominciata l'interesse, diciamo così, concreto di Hemingway, che per questo problema della Spagna aveva già fatto un film con Doris Evans e aveva già fatto anche un film che in origine doveva fare Dos Passos e che poi Dos Passos aveva rinunciato a fare, aveva lasciato al regista l'incarico di farlo invece con Hemingway, e loro infatti questo film lo hanno fatto. Questo era una specie di inizio pratico per la partecipazione alla guerra, ma con l'arrivo di Marta invece Hemingway è andato sui posti di combattimento. Così è cominciata Per chi suona la campana. Non c'è stato critico, non c'è stato scrittore, non c'è stato commediografo che non sia intervenuto nella critica di questo romanzo, che è stato il più importante romanzo di guerra scritto in tutto il mondo, alla pari con il libro di Tolstoj. Per esempio, il commediografo Robert Sherwood ha detto di essere d'accordo con Hemingway, che ha dimostrato la sua capacità di autocritica e ha realizzato un raro senso di novità di spirito. Lionel Trilling ha dichiarato che Hemingway è pienamente consapevole delle tensioni morali e politiche che esistevano nei fatti reali. Ha dichiarato che il libro ha rivelato uno Hemingway in ripresa, che scrive dalla cima della sua curva, e che gli episodi di El Sordo sono pari a quelli di Tolstoj nel suo miglior modo di descrivere le battaglie. Poi ha descritto le debolezze, il melodramma al posto della tragedia, la orribile mancanza di ragione della morte di Robert Jordan, la convinzione piuttosto sciocca che tutti gli uomini siano capaci di dominio e di conoscenza e le donne siano tutte fatte di essenziale innocente passione. Dopo aver confrontato con sfavore l'atteggiamento di Hemingway verso la morte con quello di John Donne, Lionel Trilling ha concluso che Hemingway è totalmente al servizio del culto dell'esperienza, e ne risulta un romanzo che, affrontando l'idea di celebrare la comunità degli uomini, in realtà glorifica l'isolamento dell'io individuale. Il mento poggiato sulle braccia incrociate, l'uomo era disteso sulla terra bruna del bosco, coperta da aghi di pino. Sulla sua testa il vento investiva, fischiando, le cime degli alberi. In quel punto il versante del monte si raddolciva, ma un poco più in giù precipitava rapido e l'uomo poteva vedere la traccia nera della strada incatramata che, serpeggiando, attraversava il valico. Parallelo alla strada correva un torrente e giù nella sponda del valico l'uomo vedeva una ruota idraulica e l'acqua scrosciante della chiusa, bianca sotto il sole estivo. «Quella è la segheria?» l'uomo domandò. «Sì, non me la ricordavo. È stata costruita dopo che sei stato qui. La vecchia ruota è molto più giù del valico». L'uomo stese la carta militare in terra e la esaminò attentamente. Il vecchio guardava al di sopra della sua spalla. Era un vecchio basso e robusto, con un camiciotto nero da contadino, calzoni grigi, duri, che sembravano di latta, e ai piedi scarpe con suole di corda. Stanco della salita, respirava faticosamente. Teneva una mano su uno dei fagotti pesanti che avevano portati fin lassù. «Allora di qui il ponte non si può vedere?» «No», disse il vecchio. «Siamo sul versante piano del valico. Qui il fiume scorre lento e più giù la strada si nasconde fra gli alberi e il terreno precipita bruscamente in una gola profonda. Ah, ora ricordo. Il ponte passa su quella gola. E dove sono le sentinelle?» «C'è un posto di guardia nella segheria che si vede laggiù». «Avremo bisogno di parecchi uomini», disse il giovanotto. «Quanti puoi procurarmene?» «Quanti ne vuoi», disse il vecchio. «Qui nei monti c'è molta gente». «Quanti?» «Più di 100, ma in piccole bande». «Quanti te ne serviranno?» «Te lo dirò quando avrò visto il ponte. Vuoi vederlo ora?» «No, ora voglio vedere il posto dove nasconderemo la dinamite fino al momento buono. Vorrei metterla in un posto assolutamente sicuro, lontano dal ponte, non più di mezz'ora, se è possibile». «È facile», disse il vecchio. «Quando saremo arrivati là dove stiamo andando, vedrai che fino al ponte è tutta discesa. Ma ora dobbiamo fare ancora un po' di salita seria. Hai fame?» «Sì», disse il giovanotto, «ma mangeremo poi. Tu come ti chiami? Non me lo ricordo più». Averlo dimenticato gli sembrò un cattivo presagio. «Anselmo», rispose il vecchio. «E sono di Barco de Avila. Vieni, ti aiuto a mettere il sacco in spalla». Il giovanotto, che si chiamava Robert Jordan, adesso aveva fame ed era molto preoccupato. Affamato era spesso, ma si preoccupava raramente perché non dava importanza a quanto gli accadeva. Sapeva per esperienza come fosse facile circolare in tutta quella regione dietro il fronte nemico. Quello che importava era l'avere una buona guida. Poi ci si poteva spostare dietro le linee ed anche attraversarle. Ciò che rende difficile le cose è dare importanza a quello che può accadere se si è catturati. È il dover decidere di chi conviene fidarsi. Delle persone con cui si lavora bisogna fidarsi completamente o non fidarsi, non fidarsi affatto. E bisogna decidere se fidarsene o no. Ma nulla di tutto questo preoccupava il giovanotto. C'era dell'altro. Anselmo era una brava guida e conosceva benissimo le montagne. Robert Jordan era da parte sua un buon camminatore e poiché seguiva dall'alba il vecchio, sapeva benissimo che questi aveva anche più resistenza di lui. Per ora si fidava in tutto di Anselmo, tranne per il modo di giudicare le cose. Non aveva avuto ancora l'occasione di mettere alla prova il cervello del vecchio e, del resto, la responsabilità di giudicare era sua. No, Anselmo non lo preoccupava e il problema del ponte non era più spinoso di tutti gli altri problemi. Jordan sapeva come si fanno saltare i ponti di ogni genere. Ne aveva fatti saltare un'infinità, di ogni tipo e grandezza. I due pacchi contenevano abbastanza dinamite e tutto il materiale necessario per far saltare a regola d'arte quel ponte, anche se fosse stato più grande il doppio di come lo descriveva Anselmo o di come Jordan stesso lo ricordava quando nel 1933 lo aveva attraversato andando a piedi alla granja o anche di come gliene aveva letto la descrizione Goltz due sere prima in quella stanza all'ultimo piano della casa accanto all'Escurial. «Far saltare il ponte è una cosa da niente», aveva detto Goltz, il cranio rasato pieno di cicatrici nel cerchio del lume, indicando con la matita sulla grande carta. «Capite?» «Sì, capisco. È proprio niente. Far semplicemente saltare in aria il ponte sarebbe un insuccesso». «Sì, compagno generale. Quello che occorrerebbe è di far saltare il ponte in un certo momento, che dipenderà dall'ora fissata per l'attacco. Voi naturalmente lo capite, questo si avrebbe il diritto di attendersi e così andrebbe fatto». Goltz esaminò la matita e poi se la batté sui denti. Robert Jordan non aveva fiatato. «Voi lo capite, questo si avrebbe il diritto di attendersi e così andrebbe fatto», seguitò Goltz guardando Jordan e crollando il capo. Adesso batteva la matita sulla carta. «È così che farei, ma questo non possiamo ottenerlo». «Perché, compagno generale?» «Perché?» chiese Goltz, arrabbiandosi. «Chissà quanti attacchi avete visti e mi chiedete perché? Chi mi garantisce che i miei ordini siano alterati? Chi mi garantisce che non si rinunzi all'attacco? Chi mi garantisce che l'attacco non venga ritardato? Chi mi garantisce che non si sia sferrato 6 ore dopo l'ora stabilita? Un attacco è forse mai andato come doveva?» «Se è il vostro attacco, comincerà all'ora giusta», disse Robert Jordan. «Gli attacchi non sono mai miei», disse Goltz. «Io li faccio, ma non sono miei. L'artiglieria non è mia, devo chiederla, e anche quando ne hanno non mi danno mai quella che chiedo. Ma questo è il meno, c'è dell'altro. Voi sapete com'è quella gente, no? È inutile rivangare, capita sempre qualche cosa e c'è sempre qualcuno che si mette di mezzo. State attento perciò a capirmi bene». «Insomma, quando deve essere fatto saltare questo ponte?» domandò Robert Jordan. «Dopo che è cominciato l'attacco, appena cominciato l'attacco e non prima, in modo che non arrivino rinforzi per questa strada». E indicò con la matita un punto sulla carta. «Devo essere assolutamente certo che per questa strada non arriverà niente». «E quando sarà sferrato l'attacco?» «Questo ve lo dirò, ma l'ora e il giorno saranno solo dati probabili. Significheranno che dovrete tenervi pronto per quel momento. Il ponte lo farete saltare dopo che sarà cominciato l'attacco. Guardate qui». E indicò con la matita sulla carta. «Questa è l'unica strada per la quale il nemico può portare rinforzi. L'unica strada per la quale può mandare carri armati o cannoni o avviare anche un solo autocarro verso il valico che attaccherò. Io devo avere la certezza che il ponte sia già tolto di mezzo. Non troppo presto, altrimenti se l'attacco fosse rimandato potrebbero ripararlo. No, no, il ponte deve saltare appena comincerà l'attacco e io devo essere certo che non c'è più. Al ponte ci sono 2 sentinelle. L'uomo che vi accompagnerà è appena tornato di laggiù. Dicono che sia molto fidato, questo lo vedrete. Ha degli uomini su nei monti. Prendete tutti gli uomini che vi occorreranno. Usatene il minor numero che potete, ma usatene abbastanza. Tutto questo è inutile che ve lo dica, no?» «E come saprò che l'attacco è cominciato?» «Impiegheremo un'intera divisione. Lo prepareremo con un bombardamento aereo. Non siete mica sordo per caso, no?» «Allora, appena gli aeroplani butteranno bombe, dovrò dedurne che l'attacco è cominciato». «Non sempre si può concludere così», disse Golgi scuotendo la testa. «Ma in questo caso lo potete. Quest'attacco lo faccio io». «Capisco», disse Robert Jordan. «Non posso dire che la faccenda mi entusiasmi. Non piace molto nemmeno a me. Se non volete accettare, ditelo subito. Se pensate di non poterlo fare, ditelo ora». «Lo farò», aveva detto Robert Jordan. «Lo farò senz'altro». Seduto in riva al ruscello, Jordan guardava ora l'acqua chiara scorrere tra le rocce. Mentre si rialzava, poggiandosi sui polsi, girò la testa e vide il vecchio scendere dalla parete di roccia. Era accompagnato da un altro uomo, vestito anche lui con un camiciotto nero da contadino e i soliti calzoni grigio ferro, che in quella provincia erano quasi un uniforme. L'uomo aveva anche lui ai piedi le scarpe con le suole di corda e un fucile gli sbarrava diagonalmente la schiena. Non portava cappello. I due venivano giù saltando come capre. Quando furono vicini, Robert Jordan si alzò. «Salut, camarada!» disse sorridendo all'uomo col fucile. «Salut!» rispose l'altro senza slancio. Robert Jordan esaminava la faccia pesante, irsuta dell'uomo, una faccia quasi rotonda, e anche la testa era rotonda, posata quasi senza collo sulle spalle. C'era troppa distanza fra gli occhi piccoli, le orecchie erano piccole, strettamente aderenti alla testa. Di corporatura pesante, l'uomo misurava forse 1,80 m. Aveva piedi e mani grandi. Aveva il naso rotto e una cicatrice, chiaramente visibile sotto la barba, segnava un angolo della bocca, tagliando obliquamente il labbro superiore e la mascella. Il vecchio indicò con un cenno del capo il suo compagno e sorrise. «Qui comanda lui», spiegò ridendo. Poi piegò le braccia come per gonfiare i muscoli e gettò all'uomo col fucile un'occhiata scherzosa di ammirazione. «È un uomo molto forte», aggiunse. «Lo vedo», disse Robert Jordan e sorrise di nuovo. L'uomo non gli piaceva, dentro di sé non sorrideva affatto. «Hai qualche carta per provarmi chi sei?» domandò l'uomo col fucile. Robert Jordan aprì una spilla di sicurezza che gli chiudeva la tasca sinistra della camicia di flanella, tirò fuori un foglio piegato in quattro e lo tese all'uomo che l'aprì e lo esaminò diffidente, girandolo fra le dita. «Dunque non sa leggere», notò Robert Jordan. «Guarda il sigillo», gli disse. Il vecchio indicò il sigillo e l'uomo col fucile lo esaminò attentamente, tastandolo con le dita. «Che sigillo è?» «Non l'hai mai visto?» «No, ce ne sono due», disse Robert Jordan. «Uno del SIM, il servizio di informazioni, e l'altro del Comando Supremo». «Sì, questo sigillo lo conosco, ma qui comando io solo», disse cupo l'altro. «Che cosa c'è in quei fagotti?» «Dinamite», il vecchio rispose orgoglioso. «Ieri notte abbiamo attraversato le linee al buio e tutto il giorno abbiamo trascinato su per il monte questa dinamite». «La dinamite può servirmi», disse l'uomo col fucile, restituendo a Robert Jordan il foglio e squadrandolo. «Sì, la dinamite può servirmi. Quanta ne hai portata?» «Non l'ho mica portata per te», rispose calmo Robert Jordan. «La dinamite serve per un altro scopo. Ma tu come ti chiami?» «Che te ne importa?» «E si chiama Pablo», disse il vecchio. L'uomo col fucile li squadrava con un'espressione caparbia. «Che ne vuoi fare della dinamite?» «Far saltare un ponte». «Quale ponte?» «È affar mio. Se il ponte è in questa regione, la faccenda mi riguarda. Quando si vive in un posto, non si possono far saltare i ponti nelle vicinanze. Bisogna abitare in un posto e lavorare in un altro. Io so come comportarmi. Se uno in questi tempi è ancora vivo, dopo un anno, vuol dire che sa come comportarsi». «È affar mio», ripeté Robert Jordan. «Ma ne possiamo discorrere. Vuoi aiutarmi a portare i sacchi?» «No», disse Pablo, e scosse la testa. Il vecchio si voltò bruscamente verso di lui e cominciò a parlargli furiosamente e in fretta, in un dialetto che Robert Jordan capiva appena. Pablo guardava a terra. «Ognuno deve fare quello che può, secondo come può essere fatto», infine disse. «Io abito qui e lavoro qui, oltre Segovia. Se mi create dei disordini qui, ci daranno la caccia su per questi monti. Ci lasciano rimanere su queste montagne solo perché non facciamo nulla qui. Questa è la legge della volpe». Thank you. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it